un buio fuori un botteo, uno strano nella notte, quando al fondo della botte trovi solo ostarotte. Quando il tipo sta in campana e la donna si allontana, solo solo nella strada come un gatto una puttana. Non c'è tempo per pensare a quel che si deve fare, resta solo l'animale col suo istinto primordiale. La mia vita ho dedicato, non mi serve di sparare, con un pugno sistemato quello che dovevo fare. Ma il destino ha fatto caso che nel buio si è compiuto un innocente per errore, che la mala sotto donna è sotto. Forte volle. Troppo zelo, troppa foga, poche luci per la strada, o se rotta troppo in fretta, nessun cenno di difesa. Presto, facciamo presto, raccogliamo tutto il resto, svelto, una secchiata e la strada è già lavata. Non ci servono testimoni, porta qui quei due barboni, nel baule e poi nel fiume, senza accendere neanche un lume. Prima l'acido li brucia, poi il cemento faccia presa, inutile dire tutto in prosa, detto chi non sei la fesa. Ossarotte. Penso che ancora non siete pronti per questa musica, ma ai vostri figli piacerà.